Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Per centrare l'obiettivo del 17% di energia da fonti rinnovabili nel 2020, come richiesto dagli accordi europei che abbiamo sottoscritto, è necessario anche agire sui consumi totali, riducendoli e portandoli a 133 megatep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, contro i 156 attuali. E cioè è necessario un grande sforzo per aumentare l'efficienza energetica del paese, oppure pagheremo delle penali. D'altro canto, naturalmente, un tale cambiamento richiede un sistema di incentivi stabili che determinano un costo per le casse dello Stato, che sono, come sapete, oggi più vuote che mai. Stasera allora ci chiediamo: quanto costerebbe un tale sistema di incentivi e che benefici però dovremmo attenderci in cambio? Uno studio di Confindustria ha messo a confronto appunto costi e benefici di un tale sistema di incentivi con una domanda di fondo: è possibile trasformare questo obbligo, che in ogni caso ci siamo assunti, in un'occasione di sviluppo industriale? Ebbene, ne parliamo con la persona che ha diretto questo studio di Confindustria, Massimo Beccarello, docente di economia industriale all'Università di Milano Bicocca. Buonasera, Beccarello. Buonasera, buonasera. Le chiedo come prima cosa su quali tecnologie vi siete focalizzati. Allora, ci siamo focalizzati su quelli che sono i settori sui quali l'Italia ha oggettivamente una leadership tecnologica anche a livello internazionale. Abbiamo fatto una concreta mappatura di diversi settori: trasporti, motori inverter, illuminazione, edilizia, caldaia a condensazione, pompe di calore, elettrodomestici, cogenerazione, gruppi statici di continuità, rifasamento, insomma tutta una serie di settori dove c'è un'industria italiana, un'industria che, devo dire, tra aziende dirette e indirette interessa oltre 300.000 aziende e quasi 3 milioni di occupati. Quindi già da questa prima mappatura abbiamo visto l'efficienza energetica può essere una strategia importante per attivare la domanda. E nell'ambito di un dibattito acceso quotidianamente ci riporta, insomma, il tema delle misure per lo sviluppo e la crescita, non va trascurata questa opportunità. Dunque, vedo che qui nel vostro studio voi avete calcolato per ognuna di quelle voci di cui parlava, trasporti, sì, inverter, eccetera, eccetera, tutta una serie di componenti di entrate e di uscite per i bilanci dello Stato. IRPEF, IVA, contributi statali, accise IVA, IRES, IRAP. Ecco, più o meno, insomma, che ragionamento avete fatto e quali sono i risultati? Allora, primo ragionamento: il nostro è un paese che ha un elevatissimo debito pubblico, quindi bisogna agire coscienziosamente e capire quello che è l'impatto sulla finanza pubblica. Banalmente, ci siamo messi nei panni del Ministero delle Finanze e abbiamo detto: se prendiamo le incentivazioni fiscali che esistevano nel 2010 e le teniamo strutturalmente stabili fino al 2020, quali sono gli effetti per le casse dello Stato, considerando gli elementi positivi che lei ha appena citato, incremento di IRPEF, IVA e IRES, e naturalmente togliendo quelle che sono le istanze in termini di incentivazione, cioè i contributi statali, e ovviamente, poiché si riduce il consumo energetico, anche, come dire, le minori entrate per accise e IVA, abbiamo visto che lo Stato in buona sostanza spenderebbe cumulativamente in 10 anni circa 15 miliardi, quindi sarebbero circa 1,5 miliardi di euro all'anno di costo di investimento, che equivale a minori entrate per lo Stato. Va detto però che a fronte di questo investimento migliorerebbe di quasi 25 miliardi di euro la bolletta energetica italiana, quindi 2,5 miliardi di euro all'anno, e si avrebbe inoltre un costo evitato delle esternalità ambientali misurate attraverso l'emission trading mechanism, stimato in circa 5 miliardi di euro. In buona sostanza, nelle tasche di ogni italiano ci sarebbe per la collettività un guadagno netto di quasi 1,5 miliardi di euro all'anno. Quindi questo ci dice che, visto banalmente dal punto di vista dello Stato, che ha interesse alla collettività nel suo complesso, ci sarebbe un guadagno netto di quasi 1,5 miliardi di euro all'anno. Cioè, per la collettività fare questa operazione costa meno che non farla. Esattamente. In altri termini, cioè ci conviene investire sull'efficienza energetica perché sia una partita di giro, per così dire, positiva per il paese. Cioè, ogni euro investito ne dà due di benefici, ma non è finita qui. Non è finita qui, perché l'altro elemento estremamente importante, visto che in questi giorni ognuno usa la sfera di cristallo per le previsioni di crescita del PIL, noi abbiamo cercato di vedere quale sarebbe anche l'impatto sulla crescita di questa politica di incentivazione stabile. E qui i risultati sono estremamente importanti, perché noi vediamo un potenziale di crescita della domanda di quasi 130 miliardi di euro in 10 anni, un incremento della produzione nei settori direttamente interessati per oltre 100 miliardi di euro e 240 miliardi di euro a livello di settori direttamente e indirettamente interessati, un potenziale di crescita occupazionale di 801.000 unità di lavoro standard nei settori direttamente interessati e di oltre 1,5 milioni in tutto l'indotto industriale italiano. Si tratta di numeri estremamente importanti, numeri che derivano anche dal fatto, come si diceva in precedenza, che abbiamo una forte leadership tecnologica proprio in questi settori. Proprio in questi settori. Vuole che le dica un numero? Sì. In termini di crescita media del PIL annua, questa strategia potrebbe portarci a un contributo dello 0,4%. Più 0,4%. Quindi, considerando che le migliori previsioni parlano nell'intorno dell'1% e le peggiori 0,3-0,4%, si tratta di un risultato estremamente importante. E forse quella politica di sviluppo economico, appunto, di cui parlavamo all'inizio e di cui ci sarebbe bisogno quando continuiamo a domandarci cosa fare, forse questa è proprio una di quelle cose che dovremmo fare. Grazie, grazie Beccarello. Grazie a lei, è stato un vero piacere, arrivederci. Ricordo a tutti, prima di lasciarci, che oggi è iniziato qui a Sole 24 Ore l'Energy Summit e, insomma, nei prossimi giorni incontreremo quindi molti dei protagonisti del mondo energetico. Domani avremo come ospite il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, Stefano Saglia, con cui faremo il punto sui progetti del governo in merito proprio all'efficienza energetica. A domani!